presente ha bisogno del bello, e ecco, se ne accorge quando il bello non c'è più. E quindi anche se si dovesse arrivare a dover ricostruire, bisogna pensare che siano opere d'arte, ecco, veramente significative, seppur moderne. Mi preoccupa, conoscendo il nostro paese, che molti edifici restino abbandonati per ancora molti mesi in attesa di questa decisione. Questo appunto è stato proprio la grande preoccupazione che abbiamo fatto presente, e direi che ci si sta muovendo discretamente in questa direzione, tenendo conto, io questo devo dirlo per onestà, insomma, che le strutture danneggiate, solo le chiese, sono in tutta la zona, sono 580 mi sembra, quindi una cifra enorme. E i danni sono anche per milioni, quindi come si troveranno i fondi necessari? Ho imparato in questi 6 mesi che sono vescovo, 7, cosa significa mendicare. E veramente vivo, quando trovo un mendicante per strada, adesso incomincio a capire, ecco, che cosa si può provare nel compiere quel gesto.